man al vertice l'astia al mondo, ed ipocrita veste sudo facesti alla viltà. Del chiostro ve t'ascondi, ma ti tola via l'odio e la sete di vendetta. Qualcuno qui non sarà che nel divina. Il sangue, sale il tuo sangue, può lavar l'oltraggio che macchiò l'onor mio. E tutto il vero sarò. Oh!